capace. Sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. Un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Adesso dovete farci questa gentilezza con silenzio, consegnare le cuffie ad Antonio Caielli e Mirko La Bella, che adesso altrettanto silenziosamente si avvicineranno. Invece alle... che changer la femme, changer la cuffia. La cuffia. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Forse una pedalata sotto il sole non è proprio l'immagine che abbineremo a questa piovosa estate 2014. Il sole però resta una risorsa molto importante, non solo d'estate, una importantissima fonte d'energia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Cuore e Denari. Oggi è proprio l'energia la protagonista del nostro programma e per parlare di questo argomento siamo andati a curiosare sulla guida pratica per la famiglia che è in edicola oggi con Il Sole 24 Ore. Come avete sentito anche nelle nostre anticipazioni nel giornale radio, ci sono alcune novità importanti contenute nel decreto competitività. Parliamo della riorganizzazione degli incentivi per chi usa e installa nella propria casa o anche nella propria azienda impianti fotovoltaici. Riorganizzazione che a quanto pare avvantaggerà soprattutto le famiglie, cioè chi ha dei piccoli impianti nella propria casa, perché sono stati eliminati i cosiddetti oneri di sistema. Parleremo poi nel corso del programma anche delle modalità di investimento finanziario per chi vuole puntare sulla green economy attraverso la borsa, attraverso il mercato obbligazionario, ma cominciamo subito con il presentarvi i nostri ospiti di oggi. Per la prima parte Dario Acquaro, collega del Sole 24 Ore, che ha curato la pagina Energia, il fotovoltaico, le risorse rinnovabili. Guido. Dario, buongiorno e buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah. Dario guida. E poi nella seconda parte, quella dedicata agli investimenti in azioni e obbligazioni green, ci darà qualche spunto Giovanni Veggezzi, ma lo saluteremo nel corso appunto della trasmissione. E poi naturalmente abbiamo bisogno anche di qualche figura tecnica che ci aiuti ad orientarci al meglio in questo campo che abbiamo scelto appunto di approfondire questa mattina. Ringrazio e saluto l'ingegner Luca Di Carlo, direttore della direzione ingegneria del GSE, il gestore dei servizi energetici, quindi una figura istituzionale con noi quest'oggi. Ingegner Di Carlo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno dottoressa Rosciani. E allora 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori, per le vostre domande sui temi di questa mattina. Diteci un po' se state accarezzando l'idea di allestire un impianto fotovoltaico a casa, sul vostro tetto, su un vostro terreno. Quanto pensate di spendere? Dove state andando a caccia di informazioni? Che spesa avete messo a budget? Dunque, numero verde, se volete potete anche scriverci al 349 238 6666. Faremo un punto anche su tutti gli incentivi fiscali che naturalmente movimentano questo settore, sono anche piuttosto importanti, per cui per chi volesse effettuare una spesa di questo tipo sappiate che il fisco vi viene incontro. Che ritorno da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te, un raggio di sole per te. Un raggio di sole che vale sempre di più. Vi do qualche cifra. L'attuale situazione del mercato fotovoltaico in Italia è caratterizzata dalla presenza di più di 520.000 impianti sparsi su tutto il territorio nazionale, con una particolare concentrazione nelle regioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e quindi non per esempio nel sud Italia dove c'è tantissimo sole, molto di più di quello del nord. Nello specifico sono stati installati appunto nel 2013 116.269 impianti. Poi naturalmente vi faremo anche un punto sulla potenza totale installata in questi impianti per l'appunto in tutta Italia, numeri significativi che sottolineano quanto il mercato sia cambiato soprattutto per quello che riguarda l'ambito residenziale. Dario, Acquario, vorrei fare subito un punto con te sui temi toccati dalla guida in edicola oggi con il Sole 24 Ore, perché il tema è vastissimo e quindi, siccome la guida chiaramente deve necessariamente essere sintetica, su quali aspetti vi siete soffermati? Buongiorno, allora la guida pratica per la famiglia, diciamo, è uno strumento per affrontare la gestione dell'economia quotidiana e quindi nel campo delle energie rinnovabili ci siamo concentrati su tutte le opportunità di risparmio per chi vuole installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa per produrre energia elettrica o anche per chi vuole installare dei pannelli solari termici per la produzione di acqua calda o ancora sostituire la caldaia con una pompa di calore elettrica, magari abbinata, integrata proprio all'impianto fotovoltaico stesso. Il principio di base è infatti aumentare l'autoconsumo, cioè la quota di energia prodotta è consumata dalle famiglie, prodotta dall'impianto, e in questo senso per favorire l'autoconsumo è intervenuta anche la modifica in fase di conversione del decreto competitività. Diciamo autoconsumo, io direi che è la parola chiave, senza dimenticare di sfruttare tutti gli incentivi a disposizione per un investimento del genere. Che certamente ricorderemo e che sono ricordati anche sulla guida di oggi del Sole. Ma che cosa è cambiato nel dettaglio con il decreto competitività? Come sono cambiati gli incentivi, Dario, e come funzionano adesso? Allora, il decreto competitività, cioè il DL 9114, ha rimodulato gli incentivi per gli impianti fotovoltaici oltre 200 kW che fruiscono del conto energia. Sì. Si tratta di impianti di taglia media e grande e diciamo la norma cosiddetta spalma incentivi, come è stata soprannominata, la novità non riguarda direttamente le famiglie. A toccare le famiglie è invece la modifica inserita in fase di conversione del decreto per cui gli impianti fotovoltaici di minori dimensioni, quindi la cui potenza non supera i 20 kW, sono esentati dal pagamento degli oneri di sistema sull'energia destinata all'autoconsumo. Anche il fotovoltaico, infatti, come altre fonti energetiche, è gravato in bolletta da alcuni oneri di sistema. Ecco, magari li vogliamo ricordare, così almeno qualora arrivasse la bolletta in casa, certo, ci andasse l'occhio su questa voce, adesso aiutiamo i nostri ascoltatori a decifrarla. Sono quelle voci che si possono leggere, che vengono nominate A2, A3, eccetera. Sono, diciamo, componenti aggiuntive usate per ridistribuire alcuni oneri di interesse della collettività tra tutti gli utenti. Tra questi ci sono la tutela delle fasce deboli, gli stessi incentivi alle rinnovabili, sì, certo, lo smantellamento delle centrali nucleari o le attività di ricerca. Insomma, gli incentivi sono, si può dire che siano la componente più pesante di questi oneri di sistema. Quindi per questo motivo si è cercato in qualche maniera di alleggerire le altre voci. Almeno per chi autoconsuma l'energia prodotta dal proprio impianto. Tu prima hai citato, Dario, famiglie che fruiscono del conto energia, ma se non mi ricordo male questo conto energia, questo sistema è stato chiuso un anno fa. Che cosa serviva? Come funzionava e come cambia adesso con la sua chiusura? Poi lo chiederemo anche, non perché tu non ne abbia naturalmente la competenza, però la tua è un resoconto giornalistico. Poi nel dettaglio tecnico andremo con gli altri ospiti, ma ricordiamo appunto perché è stato chiuso un anno fa. Certo, allora il conto energia è il sistema di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il quinto conto energia, che si è chiuso l'anno scorso, è il sistema di incentivi per cui il GSE, il gestore dei servizi energetici, eroga delle tariffe, diciamo due incentivi cumulabili fra loro, uno riferito alla quota di produzione netta di energia elettrica consumata in loco dal titolare dell'impianto, retribuita con una tariffa premio autoconsumo, e un altro riferito alla quota di energia prodotta e messa in rete, retribuita con una tariffa onnicomprensiva. Il quinto conto energia si applica per 20 anni al netto dello spalmo incentivi adesso. Visto quindi diciamo è stato chiuso, ma per chi aveva già sottoscritto un contratto prima di un anno fa, sostanzialmente ancora continua a fruirne gli effetti, naturalmente, i benefici. Esatto, il fruire gli effetti per 20 anni. Naturalmente la questione non si pone per chi è interessato adesso a installare un impianto fotovoltaico. Gli incentivi presenti, diciamo, adesso sono in primis la detrazione fiscale del 60, 50, ah, del 50. Del 50%, 50, è lo scambio sul posto. Che adesso spiegheremo in che cosa consiste. Volevo però come dire, andare all'ambito tecnico, cioè a quella figura che si occupa di tutto l'universo mondo del fotovoltaico, che è il GSE, il gestore dei servizi energetici. Quindi ringrazio ancora l'ingegner Luca Di Carlo, direttore della direzione ingegneria del GSE per l'appunto, al quale intanto chiedo un biglietto da visita di questa figura istituzionale. Che cos'è il GSE e che compiti è chiamato ad assolvere? Ingegner Di Carlo. Sì, bene, il GSE come lei ha anticipato è una società a capitale interamente pubblico, posseduto il 100% del suo capitale sociale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha nella sua mission proprio quello di promuovere lo sviluppo delle rinnovabili su tutto l'intero territorio nazionale. Il GSE opera secondo le delibere, le direttive del Ministero dello Sviluppo Economico, e secondo appunto la disciplina che viene dettata a riguardo anche dall'autorità dell'energia elettrica e del gas. Quindi è un soggetto pubblico, centrale, istituzionale, che ha questa missione di promuovere e assicurare la corretta gestione degli incentivi annessi alle rinnovabili su tutto l'orizzonte temporale legato all'incentivazione. Ecco, e quanto hanno utilizzato gli utenti in questi anni questi incentivi di cui voi assicurate naturalmente il corretto funzionamento? Questo per chiederle appunto, a parte la figura istituzionale che può apparire come dire un po' complessa, no, agli occhi di chi ci sta ascoltando e che magari non ha una confidenza con questi argomenti, ma qualora ci si collegasse sul vostro sito e si chiamasse il vostro call center, voi potete rispondere anche a tutte quelle domande di natura pratica, per esempio, che vi può rivolgere quell'utente che volesse installare un impianto nella propria casa. È così, ingegner De Carlo? È corretto, dottoressa, perché di fatto diciamo all'inizio l'applicazione e l'attuazione delle rinnovabili era legata a pochi operatori e pertanto anche molto esperti. Poi con la sua diffusione sull'intero territorio nazionale e quindi l'allargamento delle applicazioni delle rinnovabili anche a un'utenza meno industriale e sempre più domestica, anche il GSE ha dovuto in qualche modo riorganizzarsi per assicurare la corretta informazione e formazione degli operatori in questo settore. Quindi noi ci siamo organizzati fin dal 2005 con l'istituzione di un numero verde, poi ci siamo organizzati con un contact center che peraltro è presidiato costantemente da personale altamente qualificato, sono praticamente quasi tutti ingegneri, che assicurano appunto le risposte ai continui quesiti e richieste di approfondimento che ci fanno. Ecco, e quali sono per esempio le domande più diffuse che vi rivolgono, adesso a prescindere dal fatto, non so, è conveniente per la zona dove abito installare un impianto fotovoltaico, quanto mi costa, quali sono i temi di maggiore interesse per la popolazione italiana? Allora guardi, fondamentalmente le dicevo, le domande sono delle più diverse. Consideri che ogni giorno noi riceviamo 3.000 richieste al giorno, quindi parliamo nell'arco di un anno di oltre 1 milione di contatti. Diciamo che un terzo delle domande, delle richieste di approfondimento che ci vengono rivolte riguardano fondamentalmente informazioni di natura generale sull'impianto, su se è il caso di installarlo, come si fa, dove si applica, che tipo di norme deve attuare, deve comunque soddisfare, via dicendo. Il resto, i due terzi invece, riguardano la gestione dell'incentivo nel tempo. Come le dicevo, il GSE riconosce, qualora siano rispettati determinati requisiti previsti da decreti ministeriali, l'incentivo. L'incentivo ha una durata che è pluriennale, che può arrivare anche a 20-25 anni, a seconda del tipo di incentivo, nel fotovoltaico, come diceva il collega prima, 20 anni, e quindi è tutta una gestione che va comunque seguita nel tempo. Certo. Quindi un terzo sono domande di natura generale e due terzi invece di natura gestionale. Perché il processo va seguito nel tempo, ingegner Di Carlo? Voglio dire, se si stipula un contratto oggi, magari che cosa può cambiare nel tempo al punto che appunto porta il gestore dei servizi a dover monitorare negli anni poi il contratto stipulato appunto da un utente? Un contratto prevede degli articoli prevedono comunque il rispetto di determinati requisiti, è necessario comunque assicurare nel tempo che questi requisiti, che poi sono requisiti di norma, siano soddisfatti dall'operatore che gode di incentivi di fatto pubblici. E non solo, dato che, come diceva prima il collega, molte l'incentivazione è legata alla produzione di energia dell'impianto, quindi legata a una misura, oppure è legata a quanto energia viene ceduta alla rete, anche la corretta nel tempo valorizzazione della misura ci consente di capire e valutare e quantificare l'incentivo annesso. Mm-hmm. Ingegner Di Carlo, sì. Chiedo scusa, ma solo per completezza di informazione, certo. Oltre a un contact center, noi anche nell'ultimo anno ci siamo ovviamente consapevoli che l'informazione è fondamentale anche per far capire e valorizzare il nostro operato. Ci siamo anche nell'ambito del social network attivati con altre forme, per esempio col Twitter noi rispondiamo giornalmente a tutta una serie di domande molto semplici che ci pervengono. Ecco, quindi è un'organizzazione che completa l'organizzazione aziendale anche sotto l'aspetto della comunicazione, che è un fattore estremamente molto importante. Ho ancora un paio di domande per lei, ma nel frattempo volevo salutare anche un nuovo ospite che ci ha raggiunto, grazie a Giampiero Bresolin, esperto di domotecnica, responsabile dei punti verdi di questa organizzazione aziendale. Bresolin, buongiorno e grazie. Naturalmente a lei poi assegnerò proprio tutte le domande di natura estremamente tecnica che già gli ascoltatori ci stanno cominciando a porre all'800 24 00 24. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei e a tutti quanti. Le posso già girare un paio, se la sente, di farci una consulenza così in live. Enrico dalla provincia di Lecco, buongiorno intanto. La sua è la domanda più facile rispetto all'altra di Dario da Bergamo, per cui ho scelto lei. Enrico, buongiorno, almeno credo. Buongiorno. Credo. Volevo chiedere, sì, all'ingegner Delleri se è possibile aumentare la produzione. Io ho un impianto da 200 kW che da 4 anni che funziona e tutti gli anni diminuisce. Posso incrementarlo senza cambiarlo, pregiudicare il contributo del TSE? Ah, allora cominciamo con Bresolin, poi se Di Carlo volesse aggiungere qualcosa noi siamo naturalmente ben disponibili. Bresolin, è un impianto già esistente, si può incrementare? Allora, nell'ambito degli impianti industriali, perché l'impianto di cui stiamo parlando è decisamente un impianto di grossa taglia che richiede intervento dell'Agenzia delle Dogane e quant'altro, si possono fare degli aumenti di potenza, bisogna rispettare delle tempistiche precise dettate da. Perché l'Agenzia delle Dogane, mi scusi? Perché diventa un'officina elettrica, quindi sopra i 20 kW qualsiasi impianto di produzione è come, perdonatemi la similitudine, forse un distributore di benzina o una piccola centrale elettrica. Infatti, che avrei dovuto energia. Avere la prontezza di chiederlo ad Enrico, magari ce l'abbiamo ancora in diretta, ce l'abbiamo l'ascoltatore. Sì, Enrico, sì, la sua sì. È un'attività, quindi una piccola impresa? Sì, una piccola impresa, sul tetto c'ho un impianto totalmente integrato che è di 199 kW e col passare degli anni i kilowatt prodotti diminuiscono, io chiedo se posso integrarlo per portarlo alla produzione originale. Certo. Bresolin, che cosa deve fare l'ascoltatore? Allora, a parte ovviamente rivolgersi al GSE, perché un aumento di potenza comunque può generare dei problemi dal punto di vista di realizzazione di ulteriori cabine per l'immissione nella rete dell'energia elettrica. Un'alternativa facile, in base all'età dell'impianto, potrebbe essere anche quella di valutare l'effettivo rendimento dei pannelli e decidere se non andare a fare delle sostituzioni, facendo ovviamente le comunicazioni del caso sui codici dei nuovi pannelli e quant'altro, per reintegrare la capacità produttiva dell'impianto stesso. Lascio la parola a GSE, certo. In caso di aumento. Ingegner Di Carlo, vi arrivano molte richieste anche di aumento di potenza di impianti preesistenti, come nel caso del nostro ascoltatore di Lecco? Sì, però sì, ce ne arrivano diverse, però è bene fare un po' di chiarezza. Un impianto che è stato come quello del caso in questione del signore, di 199 kW sì, mi pare, sì. È un impianto che è stato incentivato sulla base di determinati requisiti. Quindi voler fare degli interventi finalizzati a incrementarne la produzione a compensazione di quella fisiologica potrebbe essere onere secondo lei che non vale la pena sostenere? No, significa che non è consentito se non per determinate e precise ragioni. Se lei vuole sostituire quei pannelli si possono sostituire se e solo se questi pannelli sono guasti avariati, non è che uno prende e incrementa la produzione sostituendo i pannelli. Quindi in questo caso, che qualora Enrico facesse la richiesta al GSE, qual è il tipo di istruttoria che lui, il GSE apre? Il soggetto può chiedere comunque di poter installare un altro impianto fotovoltaico di potenziamento non incentivato di quello già preesistente e quindi assicurare e migliorare quindi la produzione. Chiarissimo, speriamo. Sì, stato chiaro. Speriamo, insomma, Enrico sicuramente è un esperto dell'argomento, avrà capito certamente meglio di me, che invece non sono proprio, come dire, molto pratica di fotovoltaico, però insomma stamattina sto apprendendo tante cose interessanti. Ma ingegner De Carlo, installare un impianto fotovoltaico oggi in Italia conviene ancora? Da che cosa dipende, secondo lei, una scelta di questo tipo? Ma effettivamente se uno vede il numero di installazioni anche in assenza del conto energia che, come anticipava il collega, oltre un anno fa è terminato, il numero di installazioni continuano a essere caratterizzate da un numero importante, soprattutto nel settore domestico, il che vuol dire che le misure attivate dal governo, dall'Agenzia delle Entrate, quali quelle delle detrazioni fiscali, combinate per esempio con gli strumenti di sostegno che il GSE continua a fornire a chi è interessato a installare un impianto, quali servizi di scambio sul posto, di ritiro dedicato, consentono comunque sia, soprattutto in condizioni di autoconsumo, di assicurare un certo tempo di ritorno dell'investimento e quindi di convenienza per l'operatore. Certo, domestico. Poi magari se ce la facciamo un esempio pratico anche agli ascoltatori, proprio anche per fare una quantificazione del rientro di quanto inizialmente investito. E allora 800 24 00 24, continuate a prenotare i vostri interventi. Chiedo pazienza a Dario da Bergamo, che è prenotato da un po', adesso racconto, ma molto velocemente, Dario, la borsa, poi risaluterò anche Dario Acquaro, collega del Sole che ha curato la pagina in edicola oggi, e poi molte altre domande di natura tecnica per Giampiero Bresolin. A tra poco. Cuore e denari. Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Questa è proprio una domanda che ci facciamo anche in piena estate. Non mi riferisco al maltempo di questi mesi, ma all'aria condizionata che a volte può colpirci in modo fastidioso anche in ufficio. Sentite come sono conciata io oggi, ma anche in metropolitana e anche in auto. Io preferisco il finestrino aperto, c'è chi invece chiude tutto e mette l'aria condizionata a palla. Allora, oltre ad usarla con moderazione per questioni energetiche, bisogna anche saper prevenire gli effetti indesiderati o, nel peggiore dei casi, sapere come curarli. A partire dal fastidioso mal di gola, tipica conseguenza dell'esposizione eccessiva al condizionatore. Ha colpito anche voi? Siete alle prese con una raucedine fastidiosa d'agosto? Le vostre telefonate all'800 24 00 24. Dopo il GR delle 12 ne parleremo con un esperto, il dottor Andrea Franzetti. Oggi a Cuore Denari stiamo parlando di energie rinnovabili, di pannelli fotovoltaici. Se anche voi li avete installati o pensate di farlo, chiamateci, raccontatecelo, sottoponete i vostri dubbi e le vostre domande di natura pratica ai nostri ospiti all'800 24 00 24. Sono in tante le famiglie che negli ultimi anni stanno facendo questa scelta, nonostante la fine o comunque la riduzione degli incentivi statali in molti paesi, in tutta Europa. Questa installazione praticamente di tante famiglie si può considerare un vero e proprio boom. C'è stato un report di Bloomberg New Energy Finance secondo cui le nuove installazioni mondiali potrebbero raggiungere 52 gigawatt nel 2014 e 61 gigawatt nel 2015 rispetto ai 40 del 2013. Il problema è che l'industria mondiale, sempre secondo questo report, avrebbe una capacità produttiva pari a 70 gigawatt, ma tolte le linee produttive ed obsolete si scende a 59, inferiori alla domanda attesa per il prossimo anno. Insomma, secondo questi dati si rischierebbe addirittura la carenza di pannelli solari. Bresolin, è d'accordo? Si configura uno scenario di questo tipo? Lei, che lo conosce molto bene, che ne dice? Guardi, ben venga se si dovesse configurare questo scenario, perché vorrebbe dire che finalmente le famiglie iniziano a usare sempre di più il fotovoltaico, che a mio avviso e parere è sicuramente una fonte rinnovabile utilissima per contenere i costi ed essere un attimo più efficienti ed efficaci all'interno della gestione dell'abitazione. Diciamo che la produzione mondiale probabilmente è in grado di sostenere questa richiesta, perché molte linee di produzione, con le incertezze dei conti energia e dei mercati, spesso sono state ridotte, pur mantenendo ovviamente le linee efficienti e pronte a ripartire in caso di aumento di domanda di produzione. Certo, Bresolini, le sottopongo il caso di un'ascoltatrice che ci ha scritto al 349-238-6666 Gemma, un caso molto semplice, magari le diamo una consulenza immediata, una valutazione di convenienza di un'installazione di un impianto fotovoltaico. Lei racconta che spende circa 100 euro al mese di luce, al momento 3 kW. Mi conviene mettere un impianto fotovoltaico? Quanto mi costerebbe mettendo un impianto della potenza di 6 kW? Non so se ho poi utilizzato le unità di misura correttamente. L'affronto in questo modo. A meno che la cliente non abbia intenzione di utilizzare pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento dell'abitazione, quindi di andare a consumare molta più energia elettrica di quanto non stia consumando adesso, non ha senso fare un impianto da 6 kW, perché non vale più la pena fare gli impianti a scopo speculativo, non ci sono contributi e quant'altro. Quindi la corretta analisi per fare un impianto fotovoltaico è quella del coprire le proprie esigenze. Con 100 euro a bimestre sicuramente ha dei bassi consumi, quindi già un impianto di 3 kW potrebbe essere anche troppo, Per quanto la riguarda, però questo le potrebbe consentire di utilizzare magari in maniera più efficiente tutti i sistemi che possono essere utilizzati all'interno dell'abitazione, quindi produrre energia elettrica col fotovoltaico per l'autoconsumo e magari andare a generare l'acqua calda con dei bollitori a pompa di calore che vanno ad energia elettrica. Quanto costa un impianto di questa potenza, Bresolini? Guardi, un 3 kW sul mercato va dai 6.500 ai 7.500 euro installato, a seconda di problematiche particolari. Ok, un impianto da 6 kW ovviamente scendiamo sull'ordine dei 2.000 euro al kilowatt, quindi 12.000 euro massimo, anche meno. Chiarissimo. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Dario da Bergamo, poverino, aspetta da un sacco di tempo. Buongiorno e benvenuto. Eccoci qua. Buongiorno, eccomi. Ci dica. Allora, la mia è una questione relativamente semplice, ma ritengo abbastanza complicata. Abito in un condominio, vorrei installare dei pannelli sul mio tetto e volevo sapere quali sono le regole tali per cui posso decidere di poterlo fare con o senza approvazione dell'assemblea, di tutti gli altri suoi colleghi di condominio, sì, degli altri condomini. È indispensabile avere l'autorizzazione, il consenso totale oppure una maggioranza relativa? Grazie Dario, e naturalmente la domanda la devo necessariamente girare all'altro Dario, perché sulla guida di oggi c'è proprio anche tutto un riquadrino dedicato alle decisioni in condominio. Sui pannelli l'assemblea decide a maggioranza. Dario Acquaro. Certo, per deliberare su un'installazione che in base al codice civile è considerata una innovazione, in assemblea è necessario un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti, le cosiddette teste, almeno la metà dei millesimi. Questo a livello generale per gli impianti condominiali. Sono in ogni caso vietati gli impianti che pregiudicano la stabilità o la sicurezza del fabbricato o rendono alcune parti comuni inservibili. Quindi diciamo che io sul mio balconcino non potrei installare per mia libera iniziativa individuale un impianto fotovoltaico, anche molto modesto e piccolo. Dario, no, le cose non stanno così, magari sul balconcino no, però ecco. In condominio è possibile anche installare l'impianto a servizio di singole unità. Cioè la riforma del condominio in vigore dallo scorso anno ha disciplinato per la prima volta questa situazione. Come fare? L'installazione dell'impianto fotovoltaico, di quelli destinati alla produzione di energia rinnovabile, è consentita sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune o sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Il condomino, in questo caso, non ha bisogno di una autorizzazione preventiva da parte del condominio, ma se si deve procedere a modifiche delle parti comuni, è necessario che comunichi all'amministratore il contenuto e le modalità di esecuzione dell'intervento. Quindi quello che bisogna fare, bisogna capire Dario dove ha intenzione di installare l'impianto. Perché se ci sono delle modifiche delle parti comuni, insomma, per consentire all'assemblea di stabilire modalità alternative o imporre, dice il codice, cautele a salvaguardia di stabilità, sicurezza o decoro architettonico, assemblea che in questo caso decide con la maggioranza degli intervenuti almeno i 2/3 del valore dell'edificio, insomma, per consentire all'assemblea di proporre, di stabilire queste modalità alternative, bisogna presentare all'amministratore il contenuto, insomma, le modalità di esecuzione. A richiesta addirittura, scusami, l'assemblea provvede a ripartire l'uso del lastrico solare o delle altre superfici comuni. Perché? Perché se poi in futuro qualcun altro vorrà installare un impianto, dovrà avere lo spazio a disposizione. Evidentemente, certo. E quindi bisogna salvaguardare le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio. Però insomma, anche se si è teoricamente nelle condizioni di poterlo fare senza avvisare gli altri condomini, forse è bene una comunicazione magari all'amministratore, farla e fare tutte le valutazioni del caso anche dal punto di vista tecnico, proprio per tutelarsi al massimo. Ingegner Di Carlo, gestore dei servizi energetici, ai vostri contact center arrivano anche domande di questo tipo, se in condominio è possibile fare un'installazione di questo tipo e quali maggioranze sono necessarie per deliberare un lavoro del genere o se non sono necessarie? Arrivano domande anche di tutti i tipi, arrivano anche queste, però effettivamente, come diceva il collega, sono domande che riguardano non specificatamente la normativa di settore ma dei regolamenti condominali edilizi specifici, per cui effettivamente noi rimandiamo molto spesso a questi. Certo. Le domande a cui invece ci vengono rivolte riguardano fondamentalmente la corretta interpretazione delle norme e delle delibere attuative che di fatto poi consentono l'esercizio, no, la corretta installazione dell'impianto nonché il suo esercizio. Abbiamo una buona tecnologia italiana, ingegner Di Carlo, in questo campo, poi magari lo chiediamo anche a Bresolin che si sentirà punto sul vivo. Ma è una mia personale opinione, io penso che negli ultimi anni le società italiane hanno fatto un'ottima palestra qui in Italia, questo ha consentito di elevare, migliorare il proprio livello di produzione tecnologica, non tanto nei pannelli quanto invece negli inverter, che sono, diciamo, i due componenti principali di un impianto fotovoltaico. Sicuramente per quanto riguarda i pannelli le società italiane sono in grado di competere tranquillamente, almeno in termini tecnologici, con i pannelli prodotti in altri paesi, in Cina, negli Stati Uniti, in Giappone e ancora di più per gli inverter. Ora è chiaro che le produzioni nostre italiane sono ovviamente limitate e sono legate chiaramente alla domanda. Negli ultimi tempi le produzioni sono calate anche perché la domanda... Peccato, perché questo è un buon prodotto anche da esportare per farci conoscere bene sui mercati internazionali, o no? Sì, ma entriamo in un mercato ben più globale, molto più competitivo, dove ci sono delle regole ben precise, gare internazionali in cui non soltanto l'aspetto tecnologico ma anche quello economico e quindi fattori di scala. Quindi qua sulla Cina saremo sempre perdenti, evidentemente, figuriamoci. Io spero noi dobbiamo lavorare. Noi però volevo dire questo a riguardo, il GSE proprio per supportare anche e aggregare la capacità produttiva italiana che, ripeto, ha fatto palestra e anche parecchia in Italia con l'attuazione dei crediti del conto di energia, ha organizzato un portale che si chiama Corrente, sì. Esatto, che comunque sia è un punto di aggregazione, di visibilità non piccolo per tutti gli operatori di settore, almeno per le aziende italiane. C'è insomma una bella scrematura, già una bella selezione di operatori qualificati. Io ringrazio l'ingegner Di Carlo per averci dedicato tutto questo tempo. Buon lavoro naturalmente al gestore. Anzi, guardi, faccia una cosa, Di Carlo, le chiedo ancora 2 minuti perché poi vado anche agli altri ospiti, perché in realtà c'è una domanda di Alessandro, anche in questo caso ci chiama da Lecco, che credo che non sia riuscito a chiudere le pratiche per la richiesta dell'incentivo, quindi qua evidentemente voi avete una competenza in questa procedura. Allora Alessandro, le faccio fare la domanda, poi sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e continuiamo a sentire anche le risposte. Alessandro. Sì, buongiorno. Io avendo fatto la casa singolarmente... Se l'è costruita da sé. Se l'è costruita da sé. Ho messo sul mio tetto un impianto fotovoltaico a 6 kW tramite un'azienda dell'Alta Valtellina. questa azienda si è appoggiata a un ingegnere che mi ha progettato proprio l'impianto da capo. Tra l'altro i miei pannelli ho dovuto metterli di un colore particolare perché nel mio comune non c'era la possibilità di mettere quelli azzurri, quindi anche molto più costoso. Sentivo prima che un 6 kg a 12.000 euro io ne ho spesi sui 25 più o meno. Ha fatto un lavoro Alessandro, evidentemente ci saranno, come dire, anche delle caratteristiche tecnologiche, tecniche che hanno fatto, come dire, lievitare il prezzo. Detto questo, però, lei voleva dirmi che non è riuscita a fare le pratiche per la richiesta degli incentivi. Scopro che per i primi due anni comunque non viene percepito niente dall'utente finale, cioè il GSE non paga nulla. Alla scadenza del secondo anno iniziano a arrivare in pratica gli incentivi direttamente sul conto corrente dell'utente. Cuore e denari. Allora, rapidamente lasciamo concludere Alessandro D'Alecco. Che incentivi si aspettava nel giro di due anni dall'installazione dell'impianto sul suo tetto della sua nuova casa di zecca, Alessandro? Quelli riguardanti il quarto conto economico, però scopro solo quest'anno che non siamo rientrati. La ditta che mi ha fatto l'impianto demanda all'altro, all'ingegnere, l'ingegnere dice che non è colpa sua. Il quarto conto energia, peraltro quello che si è chiuso l'anno scorso era il quinto, ingegner Di Carlo, se non ho capito male, prima delle spiegazioni di Dario Acquaro. No, è corretto, infatti stavo cercando di ricostruire bene un pochino la situazione. A me mi sembra di capire che il signore, attraverso una ditta installatrice, ha fatto richiesta di incentivo per un impianto da 6 kW a valere sul quarto conto energia. Esatto. Dopo ben due anni dice di non aver ricevuto alcun pagamento da parte nostra. Esatto. Questo bisognerebbe capire dove si è inceppato il meccanismo, certo. Ecco, io la inviterei un attimo, mi sembra, insomma, noi abbiamo anche dei nostri diciamo strumenti di controllo, indicatori e situazioni di questo tipo. No, ma Alessandro, i tecnici a cui si è rivolto lei che cosa le dicono? Loro si rimpallano le responsabilità, tutti hanno fatto quello che dovevano fare. Però bisognerebbe vedere appunto. Ma per via legale, però non si capisce bene. Allora facciamo Alessandro, ci scriva cuoredenari@radio24.it, noi giriamo tutto al contact center. Comunque ai servizi del GSE, l'ingegner Di Carlo ci darà sicuramente una mano e cercheremo di ricostruire quello che è accaduto, anche perché comunque l'investimento che ha fatto è stato piuttosto impegnativo, aggravato dal fatto che si è dovuto anche adeguare alle richieste del comune dove ha costruito questa abitazione, quindi anche dal punto di vista estetico pannelli di un certo tipo, per cui è giusto anche che Alessandro rientri almeno parzialmente del suo investimento iniziale. Ingegner Di Carlo, grazie, buona giornata. Niente, arrivederci. Grazie anche a Dario Acquaro per essere stato con noi. Rimaniamo con Giampiero Bresolin. Non so, vuole aggiungere qualcosa? Secondo lei ad Alessandro D'Alecco cosa può essere accaduto? Bresolin, dove è andato? Eccolo qua. Sono qua, pronto? Sì, no, perché abbiamo le linee pienissime di ospiti, per cui eccoci. Lei che ne pensa di questo caso? Allora, per quanto riguarda il caso dell'ascoltatore che ha chiamato, considerato anche il costo dell'impianto, che comunque è riferito a un periodo in cui c'erano i conti energia, quindi è vero che lo ha pagato di più, ma aveva anche i contributi che più aiutavano ad ammortizzare più velocemente l'impianto. Probabilmente, non lo so, non ne sono sicuro, ma non è stato espletato correttamente l'iter di registrazione dell'impianto stesso. Quindi non è un problema purtroppo, anzi, del GSE, ma di chi ha seguito le pratiche. Bisogna essere sempre accorti nel rivolgersi a chi è adeguatamente qualificato. Oltretutto, essendo i conti chiusi, adesso o più che rivalersi contro... È difficile adesso andare a recuperare quanto fatto. Al limite... Anche una lancia a favore del prodotto italiano, perché spesso la soprintendenza richiede che vengano utilizzati i pannelli che abbiano il colore dei cuppi. Infatti. E ci sono produttori italiani che sono in grado di fornire questi pannelli con un costo di un 20-30% superiore al costo medio di un pannello tradizionale. Quindi sicuramente anche abbordabili dal punto di vista poi della spesa complessiva. E con un po' di orgoglio patrio voglio ricordare che la Baccini, che adesso è diventata Applied Materials, è stata una delle più grandi aziende nella produzione di macchine per fare pannelli solari ed era italiana, era in Veneto, quindi e perché parla al passato, non abbiamo la capacità. Parla al passato perché questa azienda è passata sotto un'altra proprietà? È passata cosa per una multinazionale americana, ecco, ovviamente, date le dimensioni. Vabbè, diciamo che gli stranieri, quando mettono gli occhi sui nostri gioielli, se li vogliono accaparrare, questo qualche volta viene visto con grande fumo negli occhi da parte di molti osservatori, commentatori e quant'altro. Certo. Io dico che naturalmente gli altri le nostre cose belle le vedono e se le vogliono conquistare. Dico anche giustamente, anche poi ci accorgiamo sempre dopo quando ci sottraggono i gioielli di famiglia. Detto questo, allora, affollatissima quest'oggi la trasmissione. Intanto io ringrazio e saluto Giovanni Veggezzi, sempre un altro collaboratore del Sole 24 Ore. Giovanni, ciao. Buongiorno Diebra, buongiorno agli ascoltatori. Che si è occupato dell'altra parte della guida del Sole 24 Ore, sempre in edicola oggi, quella in cui ci si occupa delle, come dire, degli investimenti finanziari nella green economy, no? Vale la pena ricordare, Giovanni, come tu scrivi oggi, che la green economy, ma in qualche maniera lo abbiamo anche ricordato nel corso del programma anche con quest'ultima osservazione di Giampiero Bresolin, che la green economy è uno dei settori in cui le economie mature dell'Occidente stanno puntando per agganciare la ripresa. E questo è un motivo per cui dobbiamo anche un po' considerarlo come un investimento buono sul quale magari puntare, anche se chiaramente facendo le dovute selezioni, magari affidandoci ad un consulente professionale che ci dica come selezionare anche le società giuste, no? Comunque magari una porzioncina di portafoglio forse vale la pena metterla qua, Giovanni. Certo, sicuramente, anche perché dobbiamo pensare che la crisi ha accelerato questo processo e la crescita di questo settore, perché diciamo, gli investimenti in energie rinnovabili o in una maggiore efficienza energetica in uno scenario di risorse decrescenti diventa particolarmente interessante. Quindi un settore che inizialmente era magari più dedicato a investitori istituzionali e a grossi fondi, adesso può diventare interessante anche per il piccolo investitore, ovviamente, come dici tu, con alcuni accorgimenti. Altre cose che tu racconti su queste pagine del Sole stamattina, dici insomma si tratta di un settore che non è facile da fotografare per la sua vastità, perché sotto l'etichetta verde c'è davvero di tutto, no? Certo, noi dobbiamo un po' dimenticarci l'immagine della green economy come un'economia fatta di pannelli solari e pale eoliche, perché gli operatori, quelli che investono sul mercato, considerano verde un settore trasversale, quindi che va dalla chimica al biotech a magari anche la mobilità sostenibile. Questo perché? Perché si tratta di tutti diciamo, settori, business e tecnologie che stanno puntando in particolar modo sulla riduzione dei propri consumi e dell'utilizzo di risorse. Ci sono anche settori che apparentemente sono lontani dal verde, che però stanno diventando interessanti, che vengono inclusi, come la gestione dei rifiuti. Ci sono aziende, per esempio, che sostituiscono vecchi tetti in materiali inquinanti e li sostituiscono con pannelli. Quindi è un settore molto grande, molto complesso, trasversale e che ha varie nicchie in cui ci sono opportunità interessanti per chi va a investire. Ecco, per esempio, cominciando con la borsa, intanto se andiamo a fare un'analisi della borsa italiana, scoviamo le società verdi quotate solo sul segmento AIM, quindi un segmento che peraltro è non sempre facilmente accessibile. Possiamo fare investimenti solo sul mercato secondario, se una società si quotasse domani, per esempio, io non potrei sottoscrivere l'IPO, ma questo, come dire, è un chiarimento di natura tecnica che oggi ci interessa relativamente. Ci sono molte società quotate sulla borsa italiana, Giovanni? Allora, diciamo che stanno crescendo, ci sono anche società sul mercato principale, quindi più accessibile, ma il vero fermento è appunto su AIM, quindi sul mercato delle PMI. Questa è una ragione, perché fondamentalmente il fermento del settore sta portando diverse società a puntare sul verde, sull'energia, sul fotovoltaico, sull'eolico, sul mini eolico e di pari passo, come abbiamo detto, anche la diffusione delle infrastrutture, quindi piccoli impianti, provoca la nascita di aziende che hanno minori esigenze di capitali e che quindi possono quotarsi. Però per l'investitore c'è da fare un accorgimento. Allora, innanzitutto, come giustamente detto, AIM è un mercato per investitori esperti istituzionali e il retail può arrivare solo nel secondario. Ma in ogni caso, anche se guardiamo al mercato principale, si tratta di un settore che sta conoscendo un consolidamento. Questo cosa vuol dire? Che sono nate tante aziende con il fermento del settore e adesso, come abbiamo visto, il calo degli incentivi e lo spostarsi verso altri business sta provocando fusioni, acquisti, quindi si tratta di un settore in movimento, magari, in fermento, esatto, poco adatto al cassettista classico, esatto. Che, eccetera, magari a un investitore più attento, sì, insomma, possono avere buone opportunità. Certo, allora un'ultima osservazione magari la facciamo anche, Giovanni, poi ti lasciamo, sui fondi di investimento dedicati alla green economy, anche se sono prevalentemente fondi di private equity e quindi anche in questo caso non sempre sottoscrivibili da piccoli risparmiatori. Certo, ci sono fondi, magari sono quelli più interessanti, che sono appunto fondi chiusi, quindi destinati a investitori più esperti. Ci sono però anche altre opportunità, ci sono fondi aperti, quindi uno con insomma anche una quota minima può entrare in questi fondi, sono anche di grossi operatori, pensiamo a BlackRock eccetera, quindi uno può andare in banca dal proprio consulente e puntare su questo. E poi invece ci sono, magari è possibile anche per chi non vuole i fondi e chi non vuole andare direttamente in azioni, anche degli investimenti obbligazionari. Il consiglio in ogni caso è quello di procedere con molta attenzione, anche perché è un settore che ha vari rischi, li avete appunto elencati anche dal punto di vista normativo, quindi è un settore in crescita con grandi opportunità ma anche con molti rischi. Poi insomma, se sono obbligazioni societarie di appunto aziende che operano in questo comparto, spesso le obbligazioni societarie anche hanno dei tagli di investimento piuttosto alti, certo, e non sempre facilmente sottoscrivibili. Giovanni, grazie anche a te per essere stato con noi. Grazie e buona giornata. Voi, allora, io tra un minuto devo andare in pausa perché adesso abbiamo il giornale radio tra poco, ma chiedo a Giampiero Bresolin intanto se riesce a rimanere con noi anche per un po' della seconda parte. Bresolin, ce la fa? Sì. Perché ho tante domande per lei. Sono qua per voi. Poi volevo salutare un ascoltatore qualificato del nostro programma. Saluto Alessandro Gianbruno, che è responsabile energie rinnovabili di Consumer Italia. Consumer con la K, un'associazione dei consumatori che è nata da poco, l'ha fondata il nostro amico Fabrizio Premuti, per cui grazie ad Alessandro Gianbruno per averci chiamato. Spero che non ci voglia bacchettare sulle mani perché non abbiamo dato informazioni corrette, però dal punto di vista dei consumatori ci interessa sempre molto. Gianbruno, grazie. Sì, grazie, grazie. Quali erano le sue osservazioni? Sì, bacchettate assolutamente no, l'unica cosa è che è bene chiarire per gli ascoltatori che incentivi non ce ne sono più, quindi non bisogna lanciare appunto un messaggio che ci siano ancora incentivi o quant'altro. Per il fotovoltaico, soprattutto quello domestico, non esistono più incentivi, si va soltanto sull'autoconsumo. Però la detrazione fiscale del 50% per l'installazione c'è. Quella sì, deve sottostare a determinate normative, certo. Quindi diciamo che l'unica incentivazione è quella. E la cosa importante, come sentivo prima, è il discorso dell'autoconsumo, cioè chi deve installare un impianto per uso domestico è bene che si faccia bene i conti di quello che effettivamente è il suo consumo di corrente, soprattutto durante il periodo diurno, cioè durante le fasi in cui si può andare nel famoso autoconsumo. Molto bene, guardi Gianbruno, se troviamo sul sito di Consumer Italia tutto un elenco di queste raccomandazioni pratiche, noi ve lo andiamo a rubare e lo mettiamo sul nostro profilo di Facebook di Cuore Denari, per cui grazie molte per i suoi anche suggerimenti pratici, di vita pratica. Io adesso devo andare appunto in pausa perché c'è il giornale radio, torniamo dopo con la domanda di Enzo da Vicenza, con ancora Giampiero Bresolin e con tutti i problemi anche della gola e dell'aria condizionata. Cuore e denari. Solo una bomboletta spray col peperoncino dentro per tirarti via dai guai. Le canzoni più strane le trova il mio Marco Lombardo in redazione, ma noi ne siamo ben felici perché si adattano sempre molto bene agli argomenti che affrontiamo. In futuro non molto lontano una bomboletta spray potrebbe servirci anche per il nostro impianto fotovoltaico, perché uno studio condotto da scienziati dell'Università di Sheffield nel Regno Unito apre la strada al fotovoltaico spray, una tecnologia che permetterebbe di spruzzare particelle a base di un minerale che assorbe le radiazioni solari, e si tratterebbe di un materiale a basso costo perché diffuso in tutto il mondo, la perovskite. Hanno confermato questi esperti che i moduli solari realizzati con questo spray hanno un'efficienza del 20% partendo da uno strato sottilissimo di perovskite con la K contro il 25% del silicio, partendo però da uno strato molto più spesso di questo materiale. Io non proseguo la notizia, vorrei però commentarla con il nostro esperto di oggi, Giampiero Bresolin, esperto di domotecnica, responsabile dei punti verdi di questo gruppo di domotecnica. Questo spray alla perovskite lei lo conosceva, Bresolin? Guardi, sì, ovviamente ci teniamo informati di tutto ciò che è innovazione e quant'altro. Volendola fare facile, esistono già sul mercato dei pannelli fotovoltaici che usano tecnologie ibride, tipo quelli, vabbè, non posso fare nomi di marchio, ok, ma pannelli che già sono con hanno un'efficienza del 20-25% nella resa, ovviamente costano un po' di più, però garantiscono ovviamente prestazioni ottimali. Per fortuna l'innovazione sta correndo sempre più velocemente e quindi dai vecchi pannelli, vecchi neanche tanto, anzi arricchiti al telluro di cadmio o altri principi, pian piano ci si sta spostando sempre di più nell'ottimizzare anche la resa, che è l'unico neo dell'efficienza dei pannelli fotovoltaici. Ci siamo lasciati, dottor Bresolin, nell'altra parte del programma con la raccomandazione dell'Associazione dei Consumatori, che naturalmente invita tutti ad informarsi molto bene prima di avventurarsi in un terreno che è abbastanza complesso, quello di cui parliamo oggi, no? Per cui è chiaro che è sempre bene affidarsi a dei professionisti, anche perché magari chi ci promette questo investimento magari anche ci assiste dal punto di vista tecnico e ci dice guarda, fallo questo investimento perché ci sono gli incentivi fiscali eccetera. Bisogna anche monitorare attentamente il campo fiscale, perché invece, come giustamente diceva l'esperto di Consumer Italia, oggi molti incentivi non ci sono più, sono rimasti appunto le detrazioni fiscali del 50% per l'installazione, ma il conto energia è terminato, per cui ecco, ricordiamoci anche di questi aspetti. Voi per esempio come Domotecnica siete in grado anche di fare consulenza eventualmente sugli aspetti fiscali? Guardi, assolutamente sì, nel senso che ormai un impianto, ma un intervento in generale di efficienza energetica, va valutato in tutti i suoi ambiti. Voi avete ben esposto anche tra l'altro nei vostri articoli, volendo approfittare della detrazione fiscale, questa può essere spalmata anche su altri componenti del nucleo familiare e quant'altro, e quindi in qualche modo si può riuscire anche per chi magari ha già raggiunto il cumulo massimo di detrazioni ottenibili di sfruttare la detrazione per un impianto fotovoltaico. Certo. Una cosa molto importante, mi ricollego al discorso sul monitoraggio dei consumi eccetera, la cosa importante oggi è, siccome gli strumenti ci sono, quando ci si dota di un impianto fotovoltaico può aver senso dotarsi anche di un buon impianto di monitoraggio, che non serve solo a valutare la funzionalità dell'impianto stesso, ma addirittura a far funzionare gli elettrodomestici di casa che più consumano, tipo lavatrici, lavapiatti o che, con prese comandate che vengono fatte partire dall'impianto stesso nei momenti di picco di produzione. In questo caso io sto sfruttando veramente al massimo il mio impianto fotovoltaico. Esatto, e tutelo soprattutto il portafoglio, che oggi mi sembra la principale emergenza di molte famiglie italiane. 800 24 00 24 per le vostre domande sul tema dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, qualora foste interessati appunto a una novità del genere per la vostra abitazione. Tra poco parleremo anche dei danni dell'aria condizionata, e li sentite direttamente dalla mia voce questa mattina, perché anche se non è al massimo livello qui nei nostri studi appunto di Radio 24, però è a un buon livello, al punto che mi ha irritato tutte le mucose del naso, per cui fra un po' chiederò la consulenza e il supporto del dottor Andrea Franzetti, che anzi posso già salutare perché è già collegato telefonicamente con noi. Dottore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, Deborah, buongiorno a tutti. Spero che lei abbia passato una buona estate, almeno fino a questo momento, quindi non è stato inseguito dal maltempo. Il dottor Franzetti, lo ricordiamo, è primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Ho ancora un paio di domande per il nostro esperto di fotovoltaico, dottor Franzetti, poi naturalmente vengo da lei. Bresolin, intanto per lei la domanda di Enzo da Vicenza. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. È una domanda semplice, si parla di detrazione del 50%. Io sto costruendo casa nuova e faccio un impianto da 3 kW. Mm-hmm. Mi dicono però, i tecnici che mi assistono, che io non posso usufruire delle detrazioni in quanto casa nuova. Casa nuova, esatto, perché appunto l'incentivo fiscale vale solo per le ristrutturazioni edili. Su questo posso essere già piuttosto sicura di risponderle io, però Bresolin, magari lei mi può confortare. Sì, no, assolutamente funziona così, addirittura a volte si tratta di utilizzo del piano casa, dove c'è l'obbligo di mettere almeno una parte di tecnologia o solare termico o fotovoltaica nell'ambito della realizzazione dell'immobile, e in questi casi ovviamente non si può beneficiare della detrazione per ristrutturazione. Enzo, niente, si goda questa felice circostanza della sua vita, il fatto che sta costruendo la casa dei suoi sogni, quella secondo tutte le sue aspettative, è nuova, purtroppo l'impianto fotovoltaico deve pagarlo integralmente. Raffaele dalla provincia di Pavia, l'ultima domanda su questo argomento. Questa però è molto interessante, perché voglio capire in che cosa consiste questo kit fai da te del fotovoltaico che lei ha trovato. Salve, buongiorno Deborah. Buongiorno Raffaele. Nulla, io ero interessato, ho comprato da poco una villetta che si presterebbe all'installazione dell'impianto. Ho fatto fare un preventivo a una società e visto comunque il costo abbastanza alto che mi hanno proposto, nonostante fosse un impianto da 3 kW, avevano chiesto circa 10.000 euro, che mi sembrano tanti, se non anche quello che dicevate stamattina. Per cui le domande mi sono venute in mente, sono due, ve le porgo. La prima è che ho visto parecchio su internet che ci sono dei kit fagliate, vale a dire ti danno tutto il necessario per costruire l'impianto della potenza necessaria, 3 kW, dai cavi, dall'inverter. Quanto si risparmia in questo modo, Raffaele? Allora, quanto costa? Dal mio punto di vista sembrava conveniente, perché il preventivo che mi avevano fatto era di 10.000 euro e il kit equivalente sembrava essere sui 6.000 euro. Però poi ho sentito stamattina i vostri esperti lì che dicevano che in realtà l'impianto montato, installato, era sui 6.000-7.000 euro. Sì. E questo mi ha fatto venire in mente anche la seconda domanda, che era come... Che pure il kit fai da te è troppo costoso, forse lei si aspettava un risparmio sì, più infatti, alto. E poi con confronto a quello che ho sentito stamattina, sì. Però mi ha fatto venire la seconda domanda, che sarebbe come si fa a trovare un installatore di fiducia, nel senso come... Intanto vada sul sito del gestore dei servizi del gestore dei servizi, appunto c'è il portale corrente e può trovare i contatti di installatori e produttori. Poi Bresolin, quando l'ascoltatore dice io mi sono documentato sui kit fai da te, le è venuta l'orticaria o no, che cos'altro, che tipo di effetto le fa? Do questa indicazione. Allora, l'impianto fotovoltaico è comunque un'attività complessa che vede coinvolti parecchi soggetti. Impiantisti che devono salire sul tetto, forare tecnicamente il tetto per fissare le barre, le staffe, elettricisti che devono far scendere i cavi dai pannelli fotovoltaici, ecco, per arrivare... Aspetti un attimo, Bresolin. Raffaele, lei è in grado di fare tutto questo? Allora, no, però sono un ingegnere elettronico. Mi occupo di altro, di impianti, eccetera, ma avrei perlomeno un occhio attento alle persone con cui potrei farlo, potrei coinvolgere nel principio delle persone che potrebbero fare... Quindi l'elettricista che la fa risparmiare, ecco, va bene. Bresolin, detto questo, primo punto è chiarito. Poi? Sì, sì. Diciamo che si può fare tranquillamente anche il fai da te con tutti i rischi connessi, cioè nel caso come dell'ascoltatore precedente che ha detto alla fine non mi hanno registrato l'impianto sul portale, parimenti dovesse esserci un problema dal punto di vista elettrico, costruttivo, realizzativo o anche di malfunzionamento dei pannelli, ipotetico dell'inverter, l'utente che ha seguito il fai da te si vede costretto a dover seguire da solo tutti gli iter di richiesta di risarcimento, sostituzione prodotti e quant'altro. Tra l'altro poi a 6.000 euro un kit fai da te, sì, se inizia a sommarci il suo costo come progettista e l'impiantista che deve salire... Alla fine arriviamo a quella cifra là, insomma. Non so se vale la candela, se il gioco vale la candela, insomma, come si dice in questi casi. Ma insomma, documentarsi e magari informarsi, soprattutto se si ha magari la passione e la preparazione tecnica, che è sicuramente molto superiore alla mia. Io non mi avvicinerei mai a un lavoro del genere, ovviamente. Però poi magari avere anche un professionista che ti aiuta a fare tutta l'installazione, del quale poi puoi anche avvalerti in un momento successivo di necessità di consulenza, assistenza, forse è il caso. Chiaro che poi se i prezzi sono radicalmente diversi, allora magari è il caso di confrontare più aziende sul mercato, forse questo sì che è il caso di farlo. Allora, adesso io andrei al prossimo approfondimento, però se Bresolin vuole restare fino alle 12.30, magari dovesse arrivare proprio il domandone del secolo sul tema del fotovoltaico, a noi fa piacere. Bresolin, si ferma? Sì, certamente. Grazie molte. Che c'è? Gola. Gola, a vedere, come rossa, fumi? Sì, è meglio. Già litigo dalla mattina alla sera con mio marito che fuma tanto. Ecco, è questo. Vuoi guarì? Sì. Non litiga più con tuo marito. Che devo fare? Compri il pacchetto di sigarette. E li sciacqui? Falli fa lui. Ciao. Il professor Tucci. Ah, il professore violino, il violinista. Come va, professore? La lirica riprende? Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo. Asma professore. Sentire? Tossisci? Alt! Tossisci? Alt! Respira forte. Alt! Non respirare. Ecco là, l'iniezione le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate, mare e sole. Insomma, quando dobbiamo parlare dell'intensa attività del medico di base, ovviamente ci avvaliamo sempre della consulenza di Alberto Sordi, il medico della Mutua, ma insomma chissà in quanti medici in questi giorni hanno dovuto affrontare anche con i propri pazienti questo ritorno dell'ultima ora di un fastidioso mal di gola, di una raucedine provocata da un problema ricorrente che in realtà si manifesta sia all'inizio dell'estate, quando gli impianti di condizionamento vengono accesi naturalmente, ma poi persistono, perché gli impianti, anche se la temperatura magari non lo renderebbe necessario, vengono ancora mantenuti accesi, e in molti appunto non sostengono proprio quest'aria così alterata del condizionatore. Tante le situazioni in cui ci possiamo prenderci un mal di gola anche d'estate. Dottor Franzetti, allora lo risalutiamo, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Io stavo tanto bene fino a domenica, da ieri invece, come sente, già le mucose sono ripartite, si sono infastidite, non del rientro in ufficio, ma probabilmente un po' dell'aria che è condizionata. Certo, dottor Franzetti. Purtroppo ormai il benessere, tra virgolette, non vero fino in fondo dell'aria condizionata ci costringe a vivere non in un ambiente che sia a misura di ogni persona, ma in un ambiente dove anche l'aria condizionata è standardizzata in maniera sbagliata per tutti. Infatti, come possiamo fare? Allora, se già io già so di essere particolarmente sensibile, no, all'aria condizionata, quindi sento già la mucosa del naso che si altera, si irrita, mi infastidisce, comincio a starnutire, sapendolo che siamo sensibili, sì, in questo momento dell'anno, come possiamo fare per fermare sul nascere questo fastidio, dottore? Ma due sono i fattori secondo me da considerare. Il primo è soprattutto di chi gestisce o può gestire l'aria condizionata in sé. E qua siamo sempre in tanti a segnalare, però. Perché ma questa cosa qui è un fattore importante dell'ambiente in cui siamo, perché il fatto che intanto l'aria condizionata veda una sostituzione adeguata e una manutenzione dei filtri, soprattutto laddove vivono delle persone allergiche o delle persone che hanno delle patologie anche croniche delle vie respiratorie, è fondamentale. Ha fatto bene a segnalare la questione del filtro, perché già un ascoltatore, Stefano per esempio, ce lo ha ricordatevi anche del filtro dell'abitacolo. Questo è fondamentale. La seconda cosa è cercare di indirizzare i flussi d'aria nella maniera meno diretta possibile rispetto alle persone, perché questa cosa è il danno principale, l'impatto diretto con l'aria fredda, invece che la climatizzazione in sé. E la terza cosa è la differenza tra l'ambiente esterno, la temperatura dell'ambiente esterno, e la temperatura che noi vogliamo creare, che di solito è sempre troppo bassa rispetto all'ambiente esterno. Ormai studi dicono che non bisogna andare oltre i 6, massimo 7 gradi di differenza. Per cui quando fuori ci sono 33-34 gradi non possiamo avere un condizionamento a 20, perché è già il doppio di quello che normalmente è consentito per un benessere. Certo. Quindi già questi tre fattori sono fondamentali. L'altra questione è come stiamo noi, che è quello che possiamo fare noi, perché noi possiamo partire da una situazione ottimale oppure possiamo avere delle situazioni, un po' di reflusso gastroesofageo, delle tensioni muscolari particolari che vengono sicuramente peggiorate come torticollo, come sensazioni muscolari dall'aria condizionata, una riduzione delle secrezioni o un aumento abnorme delle secrezioni catarrali. Soprattutto chi usa la voce come lei dal punto di vista professionale, è la riduzione delle secrezioni catarrali, la secchezza con l'aria condizionata è micidiale per l'abbassamento di voce quando uno usa infatti noi abbiamo sempre qua la sciarpina oppure il maglioncino, ecco, come quello che ci portiamo al supermercato, perché lì veramente lo sbalzo d'aria intorno al collo è fondamentale. Certo. Senta, se non lo curiamo bene, il problema provocato da un'aria condizionata appunto eccessiva nell'ambiente pubblico, dove dobbiamo comunque stare per gran parte della nostra giornata, se non lo curiamo bene, quali conseguenze possiamo arrivare? Adesso, a parte il mal di gola, appunto la secrezione nasale, l'irritazione delle mucose, ma insomma nei casi estremi, proprio per tutelarci al meglio, ce li dà? Beh, allora, bisogna intanto considerare l'età delle persone che si espongono agli ambienti con aria condizionata, perché per esempio una persona anziana può avere delle conseguenze anche molto importanti sulle basse vie respiratorie, anche a livello cardiopolmonare, per cui spesso l'anziano basta un pochettino di abbassamento di temperatura e si mette il golfino immediatamente. Oppure i bambini molto piccoli, che non hanno assolutamente bisogno di essere esposti all'aria condizionata. Poi ci sono invece le persone, diciamo, di mezza età o le persone che lavorano attivamente negli ambienti, che possono andare incontro al peggioramento di situazioni patologiche e croniche in cui si trovano, che possono andare dalle allergie agli stati d'asma fino anche a ripetersi di tonsilliti, faringiti, riniti, sinusiti, che possono essere proprio causate da questo cofattore, che non è il fattore principale, ma è quello che poi scatena la patologia che invece riesce a essere in equilibrio in altri momenti dell'anno. È vero che bisogna idratarsi molto bene in questo frangente, anche se magari la temperatura è molto bassa e noi teoricamente non abbiamo bisogno di bere, ma dobbiamo sforzarci un po' a mantenere una buona idratazione del corpo, può aiutare a sopportare gli effetti dell'aria condizionata, dottore? Assolutamente sì, soprattutto non con bevande ghiacciate. Ecco, infatti, inutile che ci portiamo la Coca-Cola con 3 cubetti di ghiaccio dentro, ma insomma, ecco, temperatura ambiente è quella che serve per il nostro corpo, proprio perché, ribadisco, non è che abbiamo bisogno di rinfrescarci per effetto del caldo. Ha qualche altra raccomandazione, dottore, per affrontare un po' l'aria condizionata da ambiente pubblico? Soprattutto quella, lo dicevo prima un po' scherzando, ma insomma, nel supermercato, estate, inverno che sia, tu vai nel reparto dei freschi, insomma l'aria ti investe completamente e spesso, a me è capitato molto spesso di ammalarmi proprio uscendo dal supermercato, non perché sia particolarmente cagionevole di salute, ma veramente l'aria condizionata, c'è qualcuno che è particolarmente predisposto, dottore? È così? Certo, soprattutto lo sbalzo di temperatura, dal caldo al freddo, dal freddo al caldo. Questo è un momento micidiale per l'organismo, perché c'è chi fa più fatica a compensare con tutto l'organismo questo cambiamento di temperatura. E quindi deve tenerne conto, soprattutto quando è in ambienti di questo tipo. Benissimo. Dottor Franzetti, grazie per essere stato con noi. Insomma, abbiamo un po' anche, se vogliamo, sdrammatizzato l'effetto collaterale del ritorno dalle vacanze, ma in realtà ieri intervistavamo anche nel corso del nostro programma la collega Raffaella Calandra, che è tornata dalle vacanze malatissima, proprio perché tra il traghetto e l'aria condizionata che sta anche sui luoghi, sui mezzi di trasporto per andare in vacanza e quella da ufficio, insomma, tornare dalle vacanze e ammalarsi è veramente il massimo. Dottore, grazie e buona giornata. Prego, un saluto a tutti. Grazie molte. Un'ultima domanda per Giampiero Bresolin. Come gli dicevo, naturalmente sono state tantissime le richieste di chiarimento sul tema del fotovoltaico che stamattina sono arrivate dai nostri ascoltatori. C'è Ernesto, la provincia di Lecco stamattina l'ha fatta veramente da padrona. Ernesto, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ci dica. Allora, io sono contentissimo di aver installato i pannelli fotovoltaici circa 2 anni fa. Come mai tutta questa felicità? Perché ho risparmiato un sacco di soldi su quello che è l'energia elettrica. La bolletta era più o meno di 100 euro al mese, è diventata di 40 euro al mese. E certo, e quindi praticamente in quanto tempo però ha compensato anche l'investimento iniziale, Ernesto? Allora, teoricamente io dovrei compensarlo tra gli 8 e i 10 anni, perché il mio investimento iniziale è stato un po' caro, probabilmente perché ho pagato 11.500 euro. I pannelli, ma non sono contento di una cosa, perché la potenza dei 3 kW diciamo utilizzabile, 2 kW 880 mi dice il foglio del contratto che avevo, io al massimo riesco a sfruttare 2 kW e 100. È giusto o non è giusto? Perché la pista mi dice no, è tutto giusto, va tutto bene. C'è questo margine. Bresolin, tra il dichiarato e la potenza effettivamente utilizzata c'è sempre questo scarto, questa differenza come nel caso di Ernesto? Allora, tecnicamente un piccolo scarto c'è tra la potenza nominale dichiarata e poi la reale potenza utilizzabile, ci sono anche dei limiti dell'inverter stesso che non consente di superare certi picchi di potenza nel caso di fornitura dell'energia. Normalmente un 3 kW, giusto così per indicazione generale, dovrebbe prudenzialmente produrre tra i 3.000 kW anno e anche i 3.500 a seconda della zona d'Italia dove è posizionato. Poi ovviamente ci sono i problemi dell'orientamento, inclinazione delle falde, non corretta esposizione dei pannelli, ombreggiamenti o quant'altro. Un suggerimento che posso dare, se ha dei dubbi sulla produzione dell'impianto, è comunque di fare un check sia sulla resa dei pannelli sia sulle stringhe e l'inverter, in modo da controllare che sia effettivamente reale la capacità di produzione dell'impianto stesso. Potrebbe poi un domani puntare anche a un impianto d'accumulo, potrebbe aiutarlo nel recuperare quell'energia che magari finisce in rete e che potrebbe riutilizzare. Allora, la nostra trasmissione sta volgendo al termine, ma un'ultima domanda di 10 secondi gliela faccio, Bresolin. Stefano da Pordenone chiede: chi non dispone della corretta esposizione sul tetto ha la possibilità comunque di considerare l'opzione di installare i pannelli a parete? Allora, può considerare l'opzione di installare i pannelli a parete sempre che la regione presso la quale abita glielo consenta, quindi i vincoli prevalentemente sono normativi. Ovvio che bisogna anche pensare allora a pannelli adeguati con rese e potenze adeguate, perché l'efficienza dell'impianto viene comunque abbastanza abbassata. Benissimo. Posso solo dire una cosa? In 5 secondi? Il fotovoltaico, 2 secondi. Negli impianti aerolici fondamentale ormai è anche non solo fare la pulizia, ma fare anche la sanificazione degli impianti. La manutenzione, quindi, ordinaria questa, Bresolin, o straordinaria? La sanificazione straordinaria, perché l'inquinamento indoor è sempre più forte. Certo. Scusate. Ha fatto benissimo a ricordarlo. Grazie molte, grazie a Giampiero Bresolin, che ha risposto a tutte le domande degli ascoltatori. Grazie a Filippo Aureggi in assistenza tecnica, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. Naturalmente torniamo domani e parliamo del ritorno a scuola. Cuore e denari.